E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Abbia pazienza, Ernesto. Dica, fatto? Sì, ho fatto. La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35, 800-24-0024 per chiamarci in diretta, vi ripeto il numero 800-24-0024, la zanzara è radio24.it, poi ci sono gli sms al 349-238-6666, titoli del TG2. Maxi operazione anticamorra nel Casertano contro il clan dei casalesi, decine di arresti, manette anche i tre killer della strage di Castel Volturno, Maroni, una giornata da incorniciare. Nuovo appello di Bush al Congresso. Senza l'approvazione del piano, conseguenze gravi. Il Ministero del Tesoro italiano rassicura, nessun pericolo per il nostro paese. Nell'India nord-occidentale quasi 200 persone hanno perso la vita schiacciate dalla folla in un tempio indù. 25.000 fedeli si erano radunati per le celebrazioni di una festa religiosa. Doveva entrare in vigore da domani il divieto di salire sui treni per gli animali domestici di peso superiore ai 6 kg, ma su richiesta del governo il provvedimento è stato sospeso per 15 giorni. Ora Libero è uno straordinario giornale, secondo me, quello diretto da Vittorio Feltri, con le sue idee, certo, ma irriverente, originale. Oggi ho aperto, l'ho comprato, prima pagina, Compagni Pistola, satira da cimitero, nell'inserto comico dell'Unità, una macabra vignetta contro il ministro Brunetta. Un giovane gli punta l'arma e promette di ammazzarlo, e c'è poco da ridere, e più o meno anche il giornale. Su questa vicenda, l'Unità che punta la pistola contro Brunetta. Rimango della mia idea, rimango su quello che abbiamo detto ieri, è un inserto dell'Unità in cui c'è una vignetta nelle pagine interne che è pur sempre una vignetta, è vero, si tirano in ballo le pistole, però insomma non esageriamo, da tutte le parti naturalmente non esageriamo. Andiamo con i titoli di Studio Aperto. Ho sempre avuto paura di morire, uccisa in quel deserto, e per far passare il tempo ho anche scritto un diario. A Studio Aperto il racconto di Mirella De Giuli, 71 anni, uno degli ostaggi tenuti prigionieri per 10 giorni tra Egitto e Sudan. Appena arrivata a casa ha chiesto agnolotti e caffè. Maxi operazione contro la camorra, 107 ordini di custodia in carcere per boss e gregari di Casal Principe nel Casertano. Fra gli arrestati anche due killer della strage di Castel Volturno e la moglie del capoclan Schiavone, da domani nell'area 2 checkpoint dell'esercito. Non ho ucciso le due ragazze irlandesi, ma prego sempre per loro. Parla Frederick Vernarelli, accusato di aver travolto e ammazzato due turiste lo scorso marzo a Roma. Oggi si è aperto il processo contro di lui e il giovane si difende. C'è un super testimone, dirà che sono innocente. Questi titoli principali di Studio Aperto. Avete sentito l'ultimo che vi abbiamo fatto ascoltare, perché giustamente un ascoltatore mi scrive: tempo fa avete intervistato il padre di Friedrich Vernarelli, il ragazzo che apparentemente con la sua auto investì e uccise due turisti irlandesi a Roma. Questo signore, con il suo senso di disciplina e dichiarando sostanzialmente che il figlio avrebbe dovuto pagare per quello che aveva fatto, suscitò l'ammirazione di molte persone, me incluso. Oggi vengo a sapere che la linea difensiva della famiglia, ora che adesso, è che lui non era alla guida, ma c'era un'altra persona. Mentivano prima o mentono adesso? Sono molto deluso. Luca mi scrive, e devo dire che condivido questo sconcerto di Luca, perché il padre ai nostri microfoni disse addirittura: per quello che ha fatto mio figlio ci vogliono i lavori forzati, esagerando naturalmente, ma mostrando un certo carattere, una certa determinazione, non la solita condiscendenza che i padri hanno con i figli. Da 20 giorni Vernarelli agli arresti domiciliari, sentite cosa dice. Io prego tutti i giorni per loro, per le due ragazze. Ai familiari posso semplicemente dire che è una tragedia, è come se fossero morte due mie sorelle. La speranza ora arriva da un super testimone, un turista americano, lo vedete, che ai vigili ha dichiarato che non c'era Vernarelli alla guida dell'auto. Con il ragazzo quella sera c'erano due ungheresi. Li ho conosciuti tramite il bed and breakfast che lavoro e un anno fa. E loro sono ritornati perché sono appassionati della Roma, della partita. Abbastanza sconcertante il tutto. Oggi abbiamo eletto un numero uno, un vincitore assoluto della giornata, che è questo. The winner is... Io ho servito sotto 14 presidenti del Consiglio, di destra, di sinistra, del centro, ho lavorato con tutti, non per compiacere al Presidente del Consiglio, ma per servire lo Stato e la mia Repubblica. È noto che io giro con una maglietta che sto anche indossando in questo momento, che ha il tricolore intorno al cuore. Sono orgoglioso di essere italiano e non mi può interessare per niente che quello che è il colore politico del primo ministro. Questo stamattina Bertolaso a viva voce sulla vicenda di Chiaiano, le proteste per l'apertura della discarica, numero uno assoluto protagonista secondo me della giornata di oggi, magari sottovalutato da qualche media, da qualche organo di stampa, però sono dichiarazioni secondo me straordinarie. Sentite come parla ancora dei suoi rapporti con Prodi e con alcuni dirigenti del Partito Democratico. Credo di dover lavorare al servizio del mio paese, ho lavorato con Prodi, del quale sono buon amico, col presidente Prodi mi do del tu, lavoro col presidente Berlusconi, osservo solo che con il presidente Prodi non sono riuscito a realizzare il piano che avevo disegnato e che mi era stato approvato dal governo Prodi. Con il presidente Berlusconi ho ripresentato praticamente lo stesso piano. Non vi racconto gli sms degli esponenti politici del Partito Democratico che ho ricevuto in questi mesi, tutti amici miei. Ce ne dica uno. Il rammarico di molti miei amici politici del Partito Democratico che mi dicono: Guido, sei stato molto bravo, peccato che non siamo riusciti a farlo prima. Beh, insomma, tanto di cappella un personaggio, secondo me, come Bertolaso. I Verdi hanno protestato oggi, i Verdi, l'estrema sinistra, per alcune frasi di Bertolaso sempre a viva voce. Quando Bertolaso dice: a me sembra che quelli che protestano davanti a Chiaiano siano le stesse persone che sono state mandate a casa dagli italiani. Siccome siamo in democrazia, ognuno è libero di manifestare il proprio dissenso, di polemizzare, di criticare, di ironizzare quello che vuole. È ovvio che non si possono travalicare certi limiti e ricordo anche che quelli che protestano fondamentalmente sono quelli che a me, quando ero commissario nel governo Prodi, impedirono di risolvere il problema mettendosi sempre di traverso quando io chiedevo di aprire le discariche, di fare i termovalorizzatori e quindi di completare il ciclo di rifiuti. Sono gli stessi che mi hanno impedito di lavorare durante il governo Prodi, che mi sembra siano stati mandati a casa dagli italiani nel corso delle ultime elezioni politiche e che oggi debbono comunque trovare modo per far vedere che esistono ancora. Quest'ultima frase è molto forte perché naturalmente Bertolaso in questo caso fa una valutazione di tipo politico, però secondo me se la può permettere ampiamente. A proposito di Prodi, dice un'altra cosa molto bella Bertolaso: il piano di Berlusconi è sostanzialmente uguale a quello Prodi, solo che quello di Prodi non è stato possibile attuarlo, per quello che sappiamo. Con Berlusconi ci sono riuscito. La discarica di Chiaiano, identificata, decisa dal governo Prodi, è il caso di ricordarlo perché adesso sembra che sia stato Berlusconi a volere la discarica di Chiaiano. Vorrei vedere se qualcuno ha il coraggio di smentirmi che la discarica di Chiaiano venne decisa dal governo Prodi e dall'ottimo commissario Gianni De Gennaro. Protagonista assoluto, assoluto Guido Bertolaso, ne avessimo di personaggi così e di funzionari dello Stato di questo livello, di questa chiarezza, soprattutto di questa efficacia. 800 24 00 24, ancora purtroppo considerazioni su cose ridicole, se le confrontiamo naturalmente con quello che accade a Chiaiano, con quello che accade negli Stati Uniti, con la crisi della finanza, eccetera. Però si parla ancora nei media italiani di questa storia della dittatura, di Berlusconi, della mancanza di democrazia, eccetera, eccetera. E Orlando, finalmente, Leoluca Orlando, candidato alla vigilanza RAI, ma non passerà, almeno per il momento, ci spiega finalmente che cosa intende quando parla di modello argentino rispetto al governo Berlusconi. Voglio specificare cosa intendo. Non è all'Argentina dei colonnelli. Il riferimento all'Argentina come alla Russia piuttosto che alla Svezia è evidentemente un espediente comunicativo, come io dico nella mia intervista, ma come studente di diritto costituzionale mi hanno insegnato e poi mi sono sforzato di comunicare come docente di diritto costituzionale che nella giuspubblicistica Argentina significa indebolimento del Parlamento e tendenza a un ruolo carismatico del Presidente. Questo riguarda tutte le esperienze argentine, comprese quelle di Alfonsin e di Alvarez, che vengono considerati modello di democrazia. E vabbè, questa la cultura politica, lo dico naturalmente senza ironia, di Leoluca Orlando, ma anche D'Alema ieri sera 8:30 è tornato su questa questione, ancora una volta sull'anomalia Berlusconi. Ma lasciamo stare Putin, perché voglio parlare della Russia. A me una volta capitò di dire che con Berlusconi saremmo finiti come Sud America e poi ho dovuto chiedere scusa a tutti gli ambasciatori del Sud America, diciamo, che giustamente lamentavano e spiegavano che invece nei loro paesi certe cose non accadevano. Quindi parliamo di casa nostra. Io credo che noi viviamo una condizione anomala, ho modo di esprimere questo concetto più volte anche recentemente, perché non c'è dubbio che la concentrazione di potere politico, finanziario, economico-finanziario e mediatico in una sola persona, come c'è in Italia, non c'è in nessun paese democratico. Sicuramente noi viviamo in una condizione di grave anomalia del nostro sistema democratico e questo non mi pare dubbio. Eccoci qui con il professor Massimo Teodori, da poco in libreria con Storia dei laici nell'Italia clericale e comunista, Marsilio. Allora, professor Teodori, mi hanno molto colpito oggi in alcune ricostruzioni, leggendo alcune ricostruzioni sul voto ieri del Parlamento americano, alcune frasi dette per esempio dal deputato del Michigan, Thaddeus McCotter, che è un repubblicano. Nella rivoluzione bolscevica lo slogan era pace, terra e pane. Oggi la scelta è tra pane e libertà, la gente della strada ci ha detto che preferisce la libertà, io sono con loro. Un altro deputato, rappresentante della Georgia, Paul Brown, il piano è una grossa merda di vacca con un dolcetto in mezzo. Ora, come spiegare il voto di ieri? Solo in chiave elettorale, cioè ci sono le elezioni tra 35 giorni? Beh, bisogna spiegarlo sul fatto che i rappresentanti della Camera, i membri della Camera dei rappresentanti e i senatori, ma anche più i membri della Camera dei rappresentanti, rispondono direttamente ai loro elettori, non rispondono ai partiti. E oggi gli americani sono in gran parte contrari ai 700 miliardi di dollari che il Presidente e il Ministro del Tesoro vogliono immettere sul mercato, perché ritengono che prima o poi questa grande somma di denaro sarà tolta dalle loro tasche e quindi reagiscono. È un vecchio, diciamo, un vecchio riflesso, chiamiamolo così, populistico, e i rappresentanti, i membri del Congresso americani sono estremamente legati ai loro elettori. Tra l'altro tutti quanti i membri della Camera dei rappresentanti saranno rinnovati il 4 novembre e quindi sono molto sensibili agli umori dell'elettorato. E qualcuno ieri ha scritto che anche la cifra, cioè i 700 miliardi, è un po' eccessiva, cioè non sarebbe giustificata per il suo ammontare, perché in realtà le perdite sarebbe 10 volte superiore a quella per le perdite sui mutui immobiliari, cioè la sensazione è che magari si vuole salvare anche qualcos'altro. Beh, io questo non lo so, la grande battaglia sui 700 miliardi mi pare di capire che è stata fatta da coloro che pur sono favorevoli sulle procedure e sulle modalità di attribuzione di questo denaro. Insomma, il sospetto è che con i soldi dei contribuenti si vadano a ripianare i pasticci finanziari che hanno fatto i brokers o le grandi compagnie finanziarie o assicurative, eccetera, e che quindi sia ancora una volta, diciamo, togliere dalle tasche della classe media, della gente comune, per ripianare i buchi di coloro che hanno fatto i profitti in questi anni. Io tecnicamente non so se sono molti o pochi. Certamente il sentimento che percorre l'America, diciamo, è un sentimento, in qualche misura è un sentimento democratico, nel senso che la gente comune dice no, io non voglio pagare i debiti che hanno fatto altro. È qualcosa che in Italia non succede mai. mai. Assolutamente, forse il senso comune era chiuso in questa frase, in questo ragionamento. Ho lavorato 27 anni per la Transit Authority, una casa non me la sono mai potuta comprare, i mutui li offrivano anche a me, ma lo sapevo che era una trappola. E adesso, oltre a non possedere una casa, dovrei pagare anche per questi matti che l'hanno acquistata senza avere un dollaro in tasca, o per i banchieri che si sono ingrassati con affari che non stavano in piedi? Sono le parole di un autista che adesso è in pensione ed uno di quelli che hanno manifestato davanti a Wall Street contro la legge, appunto, salva finanza da 700 appunto, milioni di dollari. E questa antica reazione di carattere populistico-democratico che c'è sempre stata in America, cioè la gente comune contro i potenti, contro i potenti in economia, in finanza, ma soprattutto la cosa che c'è da sottolineare, diciamo, hanno votato contro nella Camera dei Rappresentanti i due terzi dei repubblicani e la metà dei democratici, perché in realtà loro risponderanno alle loro constituency, cioè ai loro elettorati fra 30 giorni, e in gran parte i sentimenti del paese sono quelli, quindi poco importa, diciamo, l'interesse generale di ripianare l'economia, che è una cosa astratta, e molto invece interessa chi paga per che cosa. La ringrazio, grazie al professor Teodori. Un ascoltatore ci segnala: stanziati 140 milioni a fondo perduto per Catania, credo il CIPE l'abbia deciso, il governo sperpera altri soldi degli italiani per coprire la banda che ha governato Catania. Beh, questa è la considerazione dell'ascoltatore sulla banda, datene risalto, noi parliamo di Catania ormai quotidianamente, ci informeremo naturalmente se questi 140 milioni in che modo sono stati dati, credo che tutto sia regolare naturalmente, però fa una certa impressione anche questo. Grazie al professor Teodori, andiamo a Bergamo. Fabio, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Volevo solo dirle questo, ho sentito prima le sue belle parole verso Bertolaso, e le dico che ai tempi in cui è stato maltrattato lì a Napoli per le discariche, adesso io non mi ricordo la discarica precisa che era, però io le dico veramente da casa si stava male, perché pensare a una persona così, che se succede qualcosa a livello di terremoti o alluvioni così, è forse il più preparato in Italia, sicuramente tra i più preparati, cioè si stava male pensare di vedere una persona così, che se magari gli sarebbe successo alle stesse persone qualcosa, sarebbe il primo a dormire 2 ore la notte per intervenire e cercare di portarsi a casa, ecco, sotto quell'aspetto. Va bene Fabio, la ringrazio. Andrea, provincia di Verona, buonasera. Sì, buonasera, salve, intanto grazie per l'opportunità che mi date. Io sono un consigliere comunale del comune di Bussolengo, incaricato alla sicurezza e consigliere provinciale. Chiamavo proprio per rettificare la versione data ieri da un ascoltatore rispetto ai fatti di Bussolengo, diciamo della presunta aggressione da parte di alcuni carabinieri, insomma un pestaggio nei confronti dei Rom, che si erano, diciamo, accampati. Ecco, cercherò di essere breve. Allora, diciamo che i fatti risalgono al 5 settembre, e in quel pomeriggio alcune carovane di Rom si sono accampate in piazza San Valentino a Bussolengo. Questo piazzale è dal 99, per cui ancora con il sindaco popolare, non l'attuale sindaco, sì, interdetto alla sosta di caravan. C'è un divieto di sosta e di fermata. Sì, ma insomma la domanda è questa però, Andrea, al di là della ricostruzione, sì, che sarebbe lunga, ci sono state violenze o no? Ma assolutamente non risulta, diciamo che ci sono i verbali, ci sono gli atti, le informative dei carabinieri e dei giudici che sono di pubblico dominio. Più che altro erano alcune valutazioni che volevo fare. In primis, perché la stampa prima di scrivere, di raccontare di pestaggi non va a leggere proprio queste informative? Comunque il succo, Andrea, è che non c'è stato nessun pestaggio, non c'è stata nessuna violenza, questo ci vuole dire? Non c'è stato assolutamente. D'accordo, la ringrazio. Michelangelo, provincia di Caserta, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo semplicemente intervenire per quanto riguarda il discorso dei rifiuti, a parte la mia stima nei confronti di Bertolaso. Volevo semplicemente dire, vivendo a Caserta e nella provincia, che in effetti il problema è ben lungi da essere risolto, perché il territorio, per come lo vedo io ogni giorno che frequento queste zone, nelle immediate periferie delle piccole città e anche delle grandi città, è completamente devastato. Cioè, secondo lei in periferia, al di là del centro città, la situazione è come 6 mesi fa? Ma assolutamente, io potrei mandarle, inviarle tramite telefono. O sì, ma le foto le vediamo tutte via internet quando vogliamo, il punto è un altro. Lei è sicuro che la situazione in Campania, nonostante quello che ci dicono i giornali, Bertolaso, le autorità, eccetera, eccetera, è uguale come 6 mesi fa? Provincia di Caserta, Paolo. Salve, sì, io mi buonasera, buonasera. Buonasera, mi volevo ricondurre al discorso sulla dei rifiuti. Sì. Praticamente a Santa Maria Capua Vetere, in alcuni altri comuni della Campania, di fatto la raccolta differenziata è stata bloccata. Infatti i punti di raccolta che funzionavano fino a 3 mesi fa, ora sono stati rimossi, con la conseguenza che i cittadini debbono praticamente far confluire la raccolta differenziata insieme alla spazzatura normale. Ma perché è stata cancellata la raccolta differenziata? Mi scusi Paolo. E questo purtroppo nessuno ci ha degnato di informarci su questa cosa. Noi non siamo i cittadini, non sono al corrente. Io come cittadino di Santa Maria Capua Vetere ho cercato di contattare le istituzioni locali. Beh, questo è importante perché naturalmente dai cittadini devono arrivare le comunicazioni a Bertolaso, alla Protezione Civile, al Ministero, alle istituzioni locali sul fatto che la raccolta differenziata non funziona, così poi arrivano le penalizzazioni, dovrebbero arrivare le multe anche pesanti. Sì, io non lo spero, anche perché poi tutta questa pattume confluirebbe poi nella discarica di Chiaiano, poi alla fine, differenziato e non, quindi sarebbe al danno la beffa. E poi l'ultima cosa, se mi consente, a Santa Maria Capua Vetere paghiamo la TARSU più alta d'Italia, 500 euro in media per famiglia. Bisogna vedere l'evasione da questo punto di vista a quanto arriva, perché mi sembra piuttosto alta e quante persone la pagano. Va bene Paolo, la ringrazio. Io la pago. No, ma non lo mettevo in dubbio assolutamente. La ringrazio. Recuperiamo lo ascoltatore prima che ci chiamava sempre dalla provincia di Caserta. Michelangelo, da dove ci chiama? Sempre da Caserta, Maddaloni, in modo specifico. Maddaloni, allora lei diceva le periferie sono ancora messe male, però meglio rispetto a 6 mesi fa? No, guardi, io sinceramente non vedo questi grandi miglioramenti. Il problema sa che cos'è che risalta moltissimo? E che forse all'interno di ogni cittadino, voglio dire, io ci vivo in questa zona, è come se si fosse innescata una specie di spirale dove ognuno è libero di buttare la propria immondizia senza fare raccolta differenziata laddove si trova, cioè basta un anfratto, una piccola stradina un po' nascosta e si crea subito la discarica e ce ne sono migliaia, migliaia e migliaia. Quindi ecco perché dicevo del territorio. Questo però non c'entra niente con la raccolta, cioè l'inciviltà delle persone che buttano le immondizie in una... Ma infatti questo che mi fa più paura, cioè il fatto che siccome questa storia va avanti da anni, purtroppo la cultura delle persone qui in questo territorio ormai è diventata questa qui, cioè non fare la raccolta differenziata ma preferire buttare l'immondizia nelle piccole stradine laterali, ecco perché poi nelle periferie, nelle piccole immediate periferie il territorio è completamente devastato, c'è di tutto, si trova di tutto, ancora oggi si trova di tutto. Delle periferie dove io passo sistematicamente 4-5 mesi fa sono nella stessa identica condizione di adesso. I centri forse sono migliorati notevolmente, però le periferie no, sono ancora nella stessa identica condizione. Bene, la ringrazio Michelangelo. Andiamo a Treviso, Eride, buonasera. Buonasera, volevo tornare sul caso Belgioni per quanto riguardava l'Italia. Sì. Anche lui ha praticamente affermato che a casa sua c'è stato un incontro decisivo fra Colaninno ed Epifani. Ora, se tutto questo doveva venire a casa dell'opposizione, cioè è inutile che in Italia si fanno sede parlamentari, senati, parlamento e tutto. Andiamo tutti a casa di Veltroni e risolviamo il problema. Anche il signor Bush si può rivolgere a lui e mettere d'accordo i democratici e i repubblicani per quanto riguarda i 700 milioni di dollari, di miliardi da stanziare per salvare le banche. Questa è una dimostrazione che dall'opposizione non c'è democrazia. Beh, adesso democraticamente avrebbero invitato anche altre persone a caso di Veltroni dell'opposizione per vedere da farsi, insomma. Vabbè, la questione all'Italia Erida non è che fosse da risolvere in Parlamento, per fortuna. Ci sono dei passaggi parlamentari che riguardano un decreto del governo, uno per esempio riguarda il salvataggio da qualsiasi azione penale nei confronti di Fantozzi, ho letto poco prima sull'Ansa. La ringrazio. Andiamo a Bergamo. Michele, buonasera. Buonasera. Io chiamavo per una telefonata che ho sentito ieri di un radioascoltatore di Verona riguardo che descriveva uno scenario veramente apocalittico. Apocalittico della città. Sono rimasto abbastanza esterrefatto. Io vivo vivo a Bergamo, sono pugliese, premetto, quindi non sono originario di queste terre, ma amo Verona, come amo anche Treviso, sono città dove vado periodicamente. E lo scenario che ha descritto questo radioascoltatore è veramente fuori luogo. Verona, dove vabbè che qualcuno può essere un po' nostalgico del vecchio bolscevismo, ma un sistema democratico ha dato un suffragio veramente importante al sindaco Tosi e alla sua compagine. È una città che ha migliorato il suo servizio di sicurezza, è una città più sicura, dove la gente lo avverte, ho tanti amici ed è questo quello che mi trasmettono ogni volta che ci vado e che ho potuto constatare anche di persona. E lo stesso anche per Treviso, ma la sensazione è quella che ci sia una pervicace azione da parte della sinistra, probabilmente in mancanza di altri argomenti più seri da affrontare, di voler diffondere una paventata ondata xenofoba in un paese che xenofobo non lo è, non lo è mai stato neanche per tradizione. Guardi, non lo so se ci sia un'azione, non so se ci sia un'azione pervicace, come lei dice, dalla sinistra da questo punto di vista. Abbiamo semplicemente registrato la testimonianza dell'ascoltatore di Verona ieri sera. Naturalmente l'ascoltatore ci ha descritto una città che non mi sembra quella che molti veronesi conoscono, però naturalmente ognuno ha le sue esperienze e vive alcuni episodi di cronaca in un certo modo. Gabriele da Roma, buonasera Gabriele. Buonasera, allora io volevo intervenire, io vi sento sempre, non riesco completamente perché vi sento sempre in viaggio, e oggi quando ho acceso la radio ho sentito un intervento di Massimo D'Alema che appunto faceva la sua solita lamentela sull'eccesso di potere mediatico di Silvio Berlusconi e così via. Queste, tra l'altro, siamo in un sì, momento... Sì, io prima ho detto sono argomenti vecchiotti, non volevo dire che l'anomalia Berlusconi sia un argomento vecchiotto, dico semplicemente che tornare sulla questione del conflitto di interessi, cioè, dopo tutto quello che è successo in questi ultimi 14 anni mi sembra francamente... non dico sbagliato, un uomo politico può fare tutto naturalmente ed è giusto porre questa questione, insomma mi sembra un argomento un po' leggermente superato dagli eventi, ecco. Esatto, mi trovo perfettamente d'accordo su questo, solo che devono trovare sempre il modo, adesso che la lotta politica si è fatta un pochino più serrata. Io volevo solo ricordare, ecco, lei stesso poco fa, l'ho sentita alla radio, ha puntualizzato il fatto che il TG3 iniziava il servizio in un certo modo perché doveva per forza dare una certa impronta, però vediamo che sulle nostre televisioni continuiamo a vedere Floris e Santoro, tanto per dire. Non no, guardi, adesso lasciamo perdere Floris e Santoro, non c'entra. Lei dice, siccome ci sono Floris e Santoro non c'è nessuna dittatura, non c'è nessun regime di Putin in Italia. Non è il caso di utilizzare argomenti di questo tipo. Certamente l'intervista di Veltroni, secondo me, l'altro giorno al Corriere della Sera su Putin è tutto in una logica, secondo me, di quello che succede all'interno dell'opposizione, più che una fotografia della realtà, ma questa è una mia opinione che confronto come al solito ogni sera con gli ascoltatori. Intanto saluto da New York il professor Giovanni Sartori, buonasera. Buonasera, eccomi qua. Anzi, per lei è dunque 2-6 ore. È ancora tarda mattinata. Tarda mattinata. Che clima si respira negli Stati Uniti dopo quello che è successo ieri al Congresso? Oppure gli americani se ne fregano di quello che decide il Congresso? Di quello che decide il Congresso non se ne fregano, perché è una partita che li tocca tutti in tasca molto, perché tutti questi soldi impressionano anche gli americani, certo. Sono tanti soldi in ballo. È uno di quei casi in cui la politica discute di cose concrete che riguardano le tasche delle persone, no? Sì, insomma, il problema è chiaramente serio, perché questo è un buco finanziario non solo sospetto, ma insomma di dimensioni colossali. È una situazione scappata di mano a tutti, perché se no sarebbe stato un suicidio volontario, mentre invece è un suicidio altamente involontario. Credevano tutti di essere più furbi di quello che erano, ma non si rendevano conto dell'entità del disastro. Assolutamente. Lei ha l'impressione che nel voto di ieri alla Camera dei Rappresentanti abbia contato molto il clima elettorale? Beh, ovviamente sì, dico, non... però la differenza fra gli Stati Uniti e l'Italia è che Sì, certo che gli interessi elettorali pesano, ma poi l'accordo si fa, voglio dire, la dottrina che se si fa un accordo tra maggioranza e opposizione è la fine dell'alternanza, della democrazia dell'alternanza, è un inciucio, questa è una stupidaggine italiana. Quindi l'accordo lo troveranno. Ovviamente non è che possono digerire un buco di questa fatta e un costo di questa fatta senza discutere, quindi discuteranno, ma con l'intento di trovare un accordo, questo mi sembra chiaro, insomma, e l'accordo non è un inciucio, è intelligente farlo, perché per vincere le elezioni si deve peggiorare una catastrofe finanziaria di questa proporzione, direi di no. Almeno negli Stati Uniti non si pensa così. Ieri ho sentito qualche peones repubblicano, così l'ha chiamato un giornale italiano, dire questo è bolscevismo, cioè il piano di Bush, viva la libertà. C'è folklore anche in America. Ci sono gli imbecilli che parlano a vanvera, dico. È una questione di proporzioni, gli imbecilli ci sono dappertutto in America, politicamente parlando, per carità, certo, ma a livello di congresso meno che in Italia, ma insomma ci sono anche qua. Assolutamente. Senta, un'ultima cosa che riguarda, insomma, si legge da varie opinioni sulle elezioni che questa crisi avvantaggia Obama, lei che dice? Ma senta, su Obama ancora, insomma, il voto non è domani, quindi c'è ancora un po' di tempo, le variabili sono tante, l'ultima è quella dell'arrivo di questa Sarah Palin, che insomma è una forza o una sventura della natura, non so, ma che espone McCain a avere una vicepresidente. Tra l'altro, siccome l'uomo non è sanissimo e come qui si dice, il vicepresidente non conta nulla, ma è un colpo di cuore vicino alla presidenza, quindi in questo senso è molto importante. Ora, questa è una donna dissennata, voglio dire. Ha dato pessime interviste, sì, rappresenta, dissennata, se vuole, rappresenta l'America peggiore, ma insomma è un bersaglio insperato che McCain ha fornito a Obama, perché le interviste sono state penose e anche a me hanno fatto una pessima impressione. Quindi questo è il fatto nuovo che cambia molti giochi da qui all'elezione e può darsi che sia il boomerang questo, non il buco, il colossale finanziario. Buco finanziario che fa perdere McCain. Però intanto vedo che non la espongono molto più, quindi la adoperano ma non la mandano allo sbaraglio nelle interviste. Sento, e poi il problema di fondo resta se in che misura i voti della Clinton, Hillary, siano davvero, quindi i voti dati a una donna bianca, siano davvero trasferibili al 100% su un candidato uomo e nero. Questo era il problema di fondo sempre di questa elezione e secondo me lo resta, a meno che appunto questa Sara, che a me ha fatto un'impressione terribile, confesso, ignota ai più, anche a me, che non è grave, ma insomma, tanto per dire, ma questa Sara, insomma, forse è il colpo vero su nei confronti di McCain. È stata una pessima scelta. Senta, comunque, un'ultimissima cosa, le voglio di fondo resta quello che dicevo, in che misura la totalità dei voti di Hillary Clinton, dati con un in contraddittorio accesissimo, vero, non dati così, si sono scannati tra Obama e Clinton, sì. Siano davvero trasferibili da a lei Obama, a lui. Ecco, questo è stato sempre, secondo me, il quesito di fondo. Resta tutto al di là della crisi economica. Le chiedo un'ultima cosa. Come si vivono negli Stati Uniti impegnati a risolvere una dura crisi economica questi battibecchi italiani sul putinismo, su Berlusconi simile a Putin e queste discussioni, secondo me, ridicole? In America non... No, certo, non hanno riflessi. Ha torto, ha ragione, non voglio dire. ragione, non se ne importa nessuno, insomma, sono battibecchi visti da qui, provinciali, così, e che poi gli Stati Uniti hanno problemi propri e quindi non si interessano molto a questi fuochi di artificio italiani. Grazie professor Sartori, buona serata. Buona giornata, perché è ancora presto. Andiamo a Milano, anzi no, Angelo da Roma. Buonasera Angelo. Sì, buonasera, volevo dire qualcosa relativamente alla questione di Catania. Lei prima ricordava che lei ha un bel accento, ha un bel accento catanese, mi sembra, no? Sì, no, quasi catanese. Lei prima ricordava che il governo ha stanziato circa più di 100 milioni di euro, che sono una bella somma. Sì, il CIPE in realtà, ma insomma sostanzialmente un tesoro. Un'autorità governativa. Sì, un'autorità governativa. Se ne parla poco, secondo me, sì. Anche perché alla base del dissesto di Catania c'è un sindaco che è molto vicino al nostro Presidente del Consiglio, il suo medico personale, la persona che ha acclarato che il presidente Berlusconi è immortale. Scapagnini, sì. Ma perché se ne parla poco, però, Angelo? Non mi sembra. Abbiamo letto articoli di giornale, servizi sul dissesto di Catania, la notizia del CIPE e del finanziamento a fondo perduto per Catania è uscita oggi. Abbiamo fatto una campagna elettorale sul dissesto di Napoli e sulle responsabilità che avevano il governo della regione Campania e il sindaco di Napoli sul dissesto di Napoli, e adesso mi sembra che invece siamo un po' in controtendenza, cioè che non sia data la giusta importanza al fatto che probabilmente le amministrazioni locali italiane dovrebbero essere un po' più controllate dappertutto. No, ma questo assolutamente. Io dico che il caso di Catania è molto grave, ci sono molti comuni che hanno problemi finanziari, certamente la cosiddetta bancarotta catanese, che alcuni hanno calcolato addirittura molto superiore agli 800 milioni di euro, quasi un miliardo, mi sembra che sia sotto l'attenzione dei media da diverso tempo, però, Angelo, sinceramente, noi ce ne occupiamo quasi quotidianamente, ce ne siamo occupati con testimonianze, servizi, eccetera, per cui ne parliamo senza problemi, non è che ci facciamo, ci fermiamo perché Scapagnini è il medico di Berlusconi, figuriamoci. La ringrazio, Angelo. Domenico da Napoli, poi Mauro da Milano. Domenico. Buonasera, senta Cruciani, intanto complimenti per la sua trasmissione che seguo sempre con attenzione, un po' meno per il suo berlusconismo un po' spinto. Eccolo qua, meno male, ci voleva un po' di polemica perché abbiamo appena dato una bastonata a Scapagnini, per cui io sono un po', per quello che riguarda Catania sono un po' meno berlusconiano. Sono d'accordo. Comunque la mia era una precisazione per quanto si diceva prima su Perrotta. Perrotta sì. È sindaco di Marano. Che è un comune in Marano, sì, ecco. Chiaiano non è un quartiere di Marano, come lei ha riferito erroneamente in trasmissione, ma Chiaiano è un quartiere di Napoli. Quindi là, il giusto, a mio avviso, io sono napoletano, attenzione, sì, sì. Con le Menei, quartiere che dove è partita con successo la raccolta differenziata, per cui non parlo, come dire, in conflitto di interessi. Però Chiaiano è un quartiere di Napoli, allora Iervolino e tutte le scelte fatte per Napoli, forse sarebbe stato più giusto farle ricadere o farne ricadere le conseguenze sul territorio cittadino, ma per la conformazione geografica del posto, la discarica va a diretto nocumento dei residenti di Chiaiano. Il problema è che io non volevo dire il sindaco, non è il sindaco di Chiaiano naturalmente, ma è il sindaco di Marano. Io non ho detto che Chiaiano è un quartiere di Marano. Marano è la cittadina, il paese più interessato da questa discarica, punto. Peraltro, notizia di oggi, ieri hanno fatto dei controlli e sul fondo della discarica, di questo sito della discarica, sarebbero state trovate sostanze cattive, tipo piombo, cose del genere, per cui i tempi slitteranno di altri 4 mesi. Sì, fino alla fine di novembre forse. E allora il senso di tutta questa cosa probabilmente si andrà svuotando, perché sull'emergenza dei mesi scorsi va bene anche Chiaiano, andava bene qualunque discarica, ma se è vero come è vero che da qui a qualche mese dovrebbe partire il termovalorizzatore di Acerra, allora con una situazione a regime si capisce veramente poco, perché poi Chiaiano / Marano dovranno ospitare i rifiuti indifferenziati. Domenico, adesso non ci addentriamo nel piano di Bertolaso. Bertolaso ha detto la discarica di Chiaiano apre, che sia a fine ottobre, a fine novembre. Ora voglio dire, uno o si fida ormai arrivati a questo punto delle istituzioni e di chi è incaricato di attuare i piani e di predisporre la questione dell'emergenza rifiuti in modo di risolverla, oppure non si fida, per cui la discarica di Chiaiano va aperta, punto, poi si va a capo e si pensa ad altro, altrimenti non la finiamo più. Il problema è questo, il punto è questo. Secondo lei, Domenico, il sindaco di Marano, Perrotta, fa bene ad arrabbiarsi e ad opporsi? Perché? Me lo può spiegare? Perché lui ovviamente in quanto sindaco di Marano tende a tutelare gli interessi dei cittadini di Marano. In questa maniera noi andiamo a scaricare l'indifferenziato di Napoli, nonché di altri posti, in un sito che va a danneggiare Marano direttamente. Quindi capisco la sua, la sua posizione. Sì, ma a un certo punto, mi scusi Domenico, c'è un piano del governo che era anche del governo precedente. C'è una più o meno un percorso che è stato intrapreso per uscire dall'emergenza rifiuti. Si è deciso che alcune discariche vanno fatte temporaneamente, naturalmente, per un periodo da 2 anni, 3 anni, eccetera, eccetera. Basta, non si può discutere continuamente, bisogna agire o no? Sì, questo sono d'accordo con lei, però probabilmente dovevamo trovare un sito che riguardava la città di Napoli ubicato nel territorio di Napoli, così la polemica non sarebbe, secondo me, proprio iniziata. Sì, ce ne sarebbe stata un'altra da parte delle persone che si trovavano vicino a quell'altro sito, va sempre così. Non ne sarei così convinto, però mi sembra comunque la posizione di Salvatore Perrotta, che peraltro conosco, insomma, mi sembra una posizione ragionevole per certi aspetti. Poi, no, chiaro, ma io non discuto, Domenico, il fatto che un sindaco si opponga alla costruzione di una discarica e lo faccia con mezzi che naturalmente non siano violenti, per carità. Poi è vero che ci sono stati anche degli incidenti nei giorni scorsi, come sappiamo, e dunque su Chiaiano, Marano si riversano tutti i no dell'Italia. Però a un certo punto anche la protesta deve finire, è stato deciso di aprire una discarica e questa discarica va aperta, punto e basta, così la penso io. Dino da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Intervenivo riguardo questo discorso che si è toccato anche stasera sul fatto che Berlusconi e il suo potere mediatico non siano un'anomalia così clamorosa. Ecco, io non ho detto questo. Io dico quello che penso. Anzi, io penso che sia un'anomalia, assolutamente, però penso che sia ormai sia un non argomento, ecco. Insomma. No, ecco, e su questo non siamo d'accordo. Io volevo confutare quello che lei aveva detto e commentando l'intervento di Lema ieri, prego, sulla 7, perché io non sono d'accordo sul fatto che sia un non argomento, cioè il fatto che noi abbiamo dato per assodato, diciamo, è diventato normale che in questo paese ci sia una persona che ha un tale potere mediatico, questo non avviene in nessun paese del mondo, nemmeno se non facesse politica. Guardi che io non ho, quando parlo di anomalia non parlo del potere mediatico, parlo di un'altra cosa, l'anomalia, allora, perché oggettivamente è un'anomalia rispetto ad altri paesi per tanti motivi. È un'anomalia per un motivo semplice, perché oggi come oggi, a mio parere, Berlusconi può dire e fare quello che vuole, in quanto le persone che... No, aspetti un attimo. Se io non la penso così, ma lei può non pensare così, per carità, però io lo vorrei dimostrare. Le persone, molte delle persone che devono commentare su molti giornali, soprattutto in televisione, quello che succede nella politica italiana, in molti casi prendono direttamente lo stipendio dalla persona di cui devono parlare. Cioè questa cosa qui... Dino, il suo intervento era molto interessante, però la linea è caduta. Lo recuperiamo subito. Cristian da Milano, buonasera. Pronto? Sì, prego, Cristian, dica. Sì, buonasera. Io volevo intervenire riguardo al potere mediatico proprio di Berlusconi. E sono d'accordo con un ascoltatore che ha fatto l'intervento precedente. E volevo soffermarmi solo su una questione, ad esempio, sulla percezione che noi abbiamo della sicurezza. Ora, io voglio dire, se questo non ci viene dato dai mass media, da che altri canali ci può essere dato? Perché io voglio dire, dopo 5 anni di governo Berlusconi, eravamo sicuri, ha governato 1 anno e mezzo la sinistra, avevamo paura di uscire di casa, dopo 4 mesi in questo momento qua ci sentiamo tutti di nuovo sicuri. Adesso, se lei mi vuol dire che questa non è percezione da quello che ci raccontano i giornali, mi dica da che altra fonte deriva, perché io voglio dire, cioè, i giornali sono in mano a Berlusconi. No, io non sto dicendo che i giornali sono in mano a Berlusconi, voglio solo sottolineare che le notizie che fanno clamore, che fanno scandalo e che la gente parla, non tutti ascoltano Radio 24, non tutti leggono il giornale, a meno che vendiamo 56 milioni di giornali, non mi pare, e normalmente quasi tutti guardiamo la televisione. Ora, secondo lei, io voglio chiederle, perché la trasmissione secondo voi, che io la trovo scandalosa, con Giovanni Del Vecchio, il filosofo, che fanno a mezzogiorno, a luna, prima del televisore del Canale 5 sotto elezioni, secondo lei è una trasmissione che va fatta solamente tra prima delle elezioni o prima di, cioè è casuale? Guardi Cristian, non lo so a cosa si riferisce, forse a Paolo Del Debbio, non so a cosa si riferisca francamente. Potremmo parlare all'infinito dell'anomalia Berlusconi, Mediaset, il ruolo che ha Mediaset, il tipo di informazione che fa Mediaset nei suoi telegiornali, come è cambiata questa informazione da quando Mentana non è più direttore del TG5. Io capisco pure che ci siano un certo numero di persone ancora appassionate a questi temi, io non lo so, non sono più appassionato a questi temi, non vedo un pericolo per la democrazia da questo punto di vista, per cui ascolto molto volentieri, però poi sto zitto perché non ho più nulla da dire, a meno che non ci siano dei casi clamorosi naturalmente. Cristian, prego, vuole continuare? Sì, io non voglio dire che questa sia sinonimo di dittatura, però il discorso che voglio dire di non soffermarsi su questo punto lo trovo quantomeno. Dopo mi va benissimo le cose così, perché ormai è normale, per l'amor del cielo non mi scandalizzo di nulla, però il fatto di dire che non abbia la sua importanza, secondo me ne ha molta di importanza, perché ripeto, lo dico solamente anche negli amici, nei miei conoscenti, io penso che l'informazione che a noi arriva, se uno non legge il giornale e se non ascolta la radio come la vostra, Radio 24, l'unica informazione che può arrivare a una persona che non legge i giornali oppure non ascolta, sia la televisione. Mi dica quale altro. Guardi che in televisione ci sono tante cose, Cristian. Sì, ormai col satellite si vedono, si possono vedere tantissime cose. Poi certo, se leggiamo i dati di ascolto del TG1 o del TG5, non mi pare che il TG1 a livello giornalistico sia un presidio berlusconiano. La ringrazio. Alberto, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, provincia di Varese. Di Varese, eccoci qui. Signor Cruciani, è un piacere parlare con lei, veramente. Dica. Signore. Ma io, guardi, non trovo niente di scandaloso sul fatto della vignetta, ma non peraltro, perché... Oddio, ho 41 anni, io mi ricordo, avevo dei fratelli maggiori, si leggeva Il Male, non so se si ricorda. Sì, come no, certo. Ai tempi, esatto. E c'erano delle vignette molto più pesanti, è vero che poi lo sequestravano, per carità, in edicola, però molto più pesanti non mi sembra. Vabbè, qualche anno è passato, Alberto, esatto, forse non in vano. Infatti, per carità. Però, non lo so, mi sembra di una lupo al lupo che, non lo so, poi per carità, il ministro Brunetta, giustamente con tutte le sue responsabilità, è corretto che abbia la scorta, non mi sembra giusto quello che abbia detto Vauro, per carità. Ecco, guardi Alberto, da questo punto di vista io ieri la pensavo in un certo modo, dopo l'intervento di Vauro però sto quasi cominciando a rivedere la mia posizione. Nel paese di Auro, quindi non vorrei, ho fatto il militare là. Vabbè, adesso lasciamo perdere il militare, eccetera. Quindi, no, per carità, nel senso che è un po' particolare, cioè sono molto molto sanguigni, quindi se la prendono molto. Beh, sì, magari. Ho capito, però ironizzare sul fatto che un ministro abbia la scorta, ha la scorta, eccetera, eccetera, avere la scorta, mi sembra esagerato. Alberto, devo davvero chiudere, la ringrazio. Devo chiudere. Umberto da Napoli, Daniel da Vicenza, Giulio dalla provincia di Cremona. Però dobbiamo rimandarli a domani. La Zanzara è radio24.it. Ci sentiamo domani puntuale 18:30. Radio 24. La passione si sente.